tu me parlassi con me per stare ancora insieme. Stassi con me, parlassi con me, per stare ancora insieme. Brividi, lividi, scrivimi, dimmi che ci sarai. Abbracciami, tienimi forte, non dirmi che non te ne andrai. Tu lasciati andare, lasciami andare, lasciami stare. Nulla da dare, ho solo da fare, nulla da dire. Non voglio dormire, io devo partire. Amare mia madre, amare il mio amore, amare mio padre è tutto un errore. Donare emozione, donare un polmone, sbagliare un errore, trasmette emozione. Tradito da te, tradito da tutti, problemi risolti, sogni distrutti. Perdono i deboli, vincono i forti, cuori spezzati per via dei ricordi. Pensassi con me, parlassi con me, per stare ancora insieme. Vorrei che tu pensassi con me, parlassi con me, per stare ancora insieme. Trovandomi qua mi chiedo che ne sarà della felicità. La mia musica, la verità, fa male come un colpo di pistola. La mia verità non l'ho trovata ancora. La libertà vale più di una parola e certamente non la troverò. Ora, ancora, ancora, un ultimo secondo, un altro bicchiere. Poi non ricordo se essere un ragazzo fiero di se stesso, apprezzare ogni errore, ogni mio difetto. Nascosto tra le note, nascondo le ferite. Il tempo le corrode, l'acqua le uccide. E voi, voi continuate a non capire. Sorridere per fingere e poi morire. Imprimere illusioni solo per soffrire, illudendomi di vivere per due, tre rime. Che tu restassi con me, parlassi con me, per stare ancora insieme. Che tu restassi con me, parlassi con me.